Alla sera, quando Caleb, piuttosto stanco dopo una giornata di lavoro, era seduto in silenzio col taccuino aperto sul ginocchio, mentre Mrs. Gerf e Mary erano intente a cucire e Letty in un angolo stava parlando sottovoce alla sua bambola, Mr. Fairbrother imboccò il sentiero dell'orto, che divideva le vive luci ed ombre dell'agosto con i ciuffi d'erba e i rami dei meli. Sappiamo che aveva cari Garth, suoi parrocchiani, e aveva pensato che valesse la pena di fare il nome di Mary a Lydgate. Si avvaleva in pieno del privilegio di un prete di ignorare le discriminazioni di rango che si facevano a Middlemarch e diceva sempre a sua madre che Mrs. Gerth aveva più signorilità di qualsiasi signora della città. Eppure, vedete, egli trascorreva le serate dai Vincy, dove la padrona di casa, sebbene meno signorile, esercitava il proprio controllo su un salotto ben illuminato e sul whist. A quei tempi i rapporti umani non erano determinati soltanto dal rispetto, ma il parroco rispettava cordialmente Gerth e una sua visita non costituiva una sorpresa per quella famiglia. Tuttavia, egli ne offerse la spiegazione addirittura mentre stringeva le mani, dicendo: «Sono qui come ambasciatore, Mrs. Gerth. Ho qualcosa da dire a voi e a Gerth da parte di Fred Vincy. Il fatto è, un povero ragazzo», proseguì mentre si sedeva e si volgeva attorno con quello sguardo luminoso a guardare i tre che lo stavano ascoltando, che mi ha messo da parte dei suoi segreti. A Mary il cuore si mise a battere molto rapidamente. Si chiese fino a che punto Fred fosse confidato con lui. «Non vediamo il ragazzo da mesi», disse Caleb. «Non ho idea di cosa gli sia successo». «Si è assentato per una visita», disse il parroco, «perché a casa tirava un'aria un po' troppo cattiva per lui e Lydgate aveva detto a sua madre che il poverino non doveva ancora cominciare a studiare. Ma ieri è venuto e si è sfogato con me. Sono molto contento che l'abbia fatto perché l'ho visto crescere da quando ero un ragazzino di 14 anni e io sono così di casa dai suoi che per me i figli sono come dei nipoti. Tuttavia mi ha chiesto di venirvi a dire che è sul punto di partire e che si sente così infelice per il debito verso di voi e la sua impossibilità di pagarlo, che non ha a cuore di venire di persona neppure a salutarvi». «Ditegli che non importa», disse Caleb agitando la mano. «Abbiamo avuto il momento critico e l'abbiamo superato e adesso sarò ricco come un ebreo». «Il che significa», disse Mrs. Gerth con un sorriso al parroco, «che avremo abbastanza per allevare bene i ragazzi e tenere Mary a casa». «Qual è la miniera del tesoro?» disse Mr. Fairbrother. «Andrò a dirigere due tenute, Freshit e Tipton, e forse anche un bel pezzo di terra a Lowick. I proprietari sono tutti imparentati fra di loro e il lavoro si sparge come l'acqua una volta che venga messo in moto». «Mi rende molto felice, Mr. Fairbrother». E qui Caleb gettò un poco indietro la testa e allargò le braccia sui braccioli della sedia. Avere di nuovo l'occasione di sovrintendere all'affitto delle terre e mettere in pratica un paio di idee per dei miglioramenti è una frustrazione enorme. Come ho detto spesso a Susan, stare a cavallo, a guardare al di là delle siepi, ogni cosa andare in rovina e non poterci mettere le mani dentro per raddrizzarla. Cosa faccia la gente quando si dà alla politica non mi riesci di immaginarlo. Io quasi impazzisco a vedere una cattiva conduzione, anche solo su alcune centinaia di acri. Accadeva di rado che Caleb si abbandonasse a un discorso così lungo, ma la sua felicità aveva l'effetto dell'aria di montagna. I suoi occhi erano luminosi e le parole gli venivano senza sforzo. «Mi congratulo con voi di tutto cuore, Garth», disse il parroco. «Questa è la migliore notizia che potessi portare a Fred Vincy, perché mi ha parlato a lungo del male che vi aveva arrecato obbligandovi a sborsare i soldi, rubandoveli, ha detto lui, che vi servivano per altri scopi. Vorrei che Fred non fosse un tipo così ozioso, ha delle qualità assai buone e suo padre è un po' severo con lui». «Dove va?» chiese Mrs. Gerth in tono piuttosto freddo. «Ha intenzione di ritentare di prendere la laurea e va all'università a studiare prima del trimestre. L'ho consigliato io di fare così. Non lo spingo a fare il prete, al contrario, ma se andrà e lavorerà in modo da essere promosso, quella sarà una garanzia che possiede energia e volontà. E lui è completamente confuso, non sa cos'altro fare. Per il momento accontenterà suo padre e nel frattempo ha promesso di cercare di conciliare Vincy all'idea che suo figlio segua qualche altra strada. Fred dice francamente di non essere tagliato per fare il prete. E io farei tutto il possibile per impedire che un uomo compia il passo fatale di scegliere la professione sbagliata. Mi ha riferito quello che voi gli avete detto, Miss Gerd, ricordate? Mister Fairbrother era solito chiamarla Mary invece di Miss Gerd, ma faceva parte della sua delicatezza trattarla con tanta maggiore deferenza perché, secondo quanto diceva Mrs. Vincey, lavorava per guadagnarsi il pane. Mary si sentì a disagio, ma decisa a non dare importanza alla cosa, rispose subito: Ho detto tanta impertinenza, Fred. Siamo compagni di gioco da tanto tempo. Gli avete detto, secondo quanto lui mi riferisce, che sarebbe stato uno di quei preti ridicoli che contribuiscono a rendere ridicolo tutto il clero. Sinceramente è stata una frase così sferzante che mi sono sentito un po' offeso anch'io. Caleb rise. Per la lingua prende da te, Susan, disse con un certo piacere. Non l'insolenza, papà, si affrettò a dire Mary, temendo che la madre restasse dispiaciuta. È piuttosto un peccato che Fred ripeta i miei discorsi insolenti a Mr. Fairbrother. È stato certamente un discorso precipitoso, mia cara, disse Mrs. Gerth, per la quale parlare male di persone che avevano una dignità elevata era un grosso misfatto. Non dovremmo stimare meno il nostro parroco perché nella parrocchia vicina c'è un curato ridicolo. C'è qualcosa di vero in quello che dice, però, disse Caleb, non disposto a lasciare che la perspicacia della figlia venisse sottovalutata. Un cattivo operaio di qualsiasi genere fa guardare con diffidenza i propri colleghi. C'è un rapporto fra le cose, aggiunse, guardando il pavimento e muovendo a disagio i piedi con la sensazione che le parole erano limitate rispetto ai pensieri. È chiaro, disse il parroco divertito, comportandoci in modo spregevole instilliamo il disprezzo nella mente delle persone. Concordo senz'altro con l'opinione di Miss Gerd sull'argomento, sia che io ne esca condannato o assolto. Ma quanto a Fred Vincey, è solo giusto che debba venire un po' scusato. Il comportamento ingannevole del vecchio Firestone ha certamente contribuito a viziarlo. C'è stato qualcosa di veramente diabolico, dopo tutto, nel non avergli lasciato nemmeno un centesimo. Ma Fred ha il buon gusto di non insistere sulla cosa. Quello che lo preoccupa di più è di aver offeso voi, Mrs. Gertz, e pensa che non lo giudicherete più una brava persona. Fred mi ha delusa, disse Mrs. Gerth con decisione, ma sono pronta a giudicarlo di nuovo una brava persona, quando me ne darà un buon motivo. A questo punto Mary uscì dalla stanza prendendo Letty con sé. Oh, dobbiamo perdonare i giovani quando sono pentiti, disse Caleb, osservando Mary mentre richiudeva la porta. E come dite voi, Mr. Fairbrother, c'era il demonio in persona in quel vecchio. Ora che Mary è uscita, devo dirvi una cosa. La sappiamo Susan e io e voi non l'andrete a ripetere. Quel vecchio malandrino voleva che Mary bruciasse uno dei testamenti proprio la stessa notte in cui è morto, quando lei lo stava vegliando da sola, e le offrì una somma di denaro che aveva nella scatola presso di sé se lei l'avesse fatto. Ma Mary, voi capite, non poteva fare una cosa simile, non ha voluto manomettere il suo forziere e così via. Ora vedete, il testamento che voleva che fosse bruciato era l'ultimo, di modo che se Mary avesse fatto quello che voleva il vecchio, Fred Vincey avrebbe avuto 10.000 sterline. Il vecchio alla fine pensò a lui. La cosa tocca la povera Mary da vicino, non ha potuto farci niente. Lei aveva il diritto di fare ciò che ha fatto, ma si sente, come dice lei, proprio come se avesse scagliato a terra ciò che apparteneva a un altro e l'avesse rotto contro la propria volontà, quando stava giustamente difendendo se stessa. Io la penso come lei, in un certo senso, e se potessi ripagare in qualche modo il povero ragazzo, invece di portargli rancore per il male che lui ha fatto noi, sarei lieto di farlo. Ora, qual è la vostra opinione, signore? Susan non è d'accordo con me. Lei dice, diglielo tu, Susan. Mary non avrebbe potuto comportarsi diversamente, anche se avesse saputo quali sarebbero state le conseguenze per Fred, disse Mrs. Gerse, interrompendo il proprio lavoro e guardando Mr. Fairbrother. E lei ne era del tutto all'oscuro. A me sembra che una perdita che ha subito un altro, perché ci siamo comportati rettamente, non deve starci sulla coscienza. Il parroco non rispose immediatamente, Caleb disse: È una questione di sentimenti. La ragazza si sente in quel modo e anch'io. Non volete che il vostro cavallo calpesti un cane quando vi state tirando indietro per togliervi di mezzo. Ma quando la cosa è fatta vi fa dispiacere. Sono certo che Mrs. Gerst sarebbe d'accordo con voi in questo caso, disse Mr. Fairbrother, il quale per qualche ragione sembrava più incline a rimuginare che a parlare. Ben difficilmente si potrebbe affermare quello che dite di provare per Fred sia riprovevole, o meglio sbagliato, sebbene nessuno dovrebbe pretendere che ci si debba sentire così. Bene, bene, disse Caleb, è un segreto. Non lo direte a Fred. Certamente no, ma gli recherò l'altra bella notizia, che vi potete permettere la perdita che vi ha fatto subire. Mr. Fairbrother se ne andò subito dopo e, vista Mary nell'orto assieme a Letty, andò a salutarla. Facevano un bel quadro nel bagliore del tramonto che metteva a rilievo la lucentezza delle mele sui rami scarsi di foglie. Mary, col suo tessuto di percale color lavanda e i nastri neri che reggevano un cesto, mentre Letty con la sua nanchina Lisa raccoglieva le mele cadute. Se volete sapere più in particolare che impressione faceva Mary, 10 contro 1 che vedrete una faccia simile alla sua domani nella strada affollata, se state a osservare. Non sarà fra le figlie di Sion, che sono altezzose, camminano col collo eretto e gli occhi capricciosi, procedendo a passettini lungo la strada. Lasciatele passare tutte, fissate il vostro sguardo su qualche persona grassoccia e bruna, dal comportamento fermo ma tranquillo, che si guarda attorno ma non pensa che nessuno la stia a osservare. Se ha un viso largo e una mascella quadrata, sopracciglia ben marcate, capelli ricci e scuri, una certa espressione divertita nello sguardo di cui la sua bocca mantiene il segreto, e per il resto tratti del tutto comuni, prendete quella persona ordinaria, ma non sgradevole, per un ritratto di Mary Gertha. Se la faceste sorridere, vi mostrerebbe dei dentini perfetti. Se la faceste arrabbiare, non alzerebbe la voce, ma probabilmente direbbe una delle cose più amare di cui abbiamo mai sentito il sapore. Se le faceste una gentilezza, non se ne scorderebbe mai. Mary ammirava il piccolo parroco attraente dal viso appuntito e dai vestiti consunti e ben spazzolati, più di qualsiasi persona che avesse avuto l'occasione di conoscere. Non l'aveva mai sentito dire una cosa stupida, sebbene sapesse che ne faceva di poco sagge, e forse trovava le parole stupide di più dubbio gusto di qualsiasi azione avventata di Mr. Fairbrother. Perlomeno era degna di nota che le effettive imperfezioni della persona ecclesiastica del parroco non sembravano mai suscitare lo stesso disprezzo e la medesima antipatia che lei mostrava in anticipo per le imperfezioni prevedibili di Fred Vincey nelle vesti di prete. Queste incongruenze di giudizio, immagino, si trovano anche in menti più mature di quelle di Mary Gertz. Ci conserviamo imparziali per il merito e il demerito in astratto che nessuno di noi ha mai visto. Qualcuno indovinerà verso quale di questi due uomini, dal carattere assai diverso, Mary provava la particolare tenerezza di una donna, quello verso il quale era più incline ad essere severa, o il contrario. Avete qualche messaggio per il vostro vecchio compagno di giochi, Miss Gertz? Chiese il parroco, mentre prendeva una mela fragrante dal cesto che lei gli porgeva e se la metteva in tasca. Qualcosa per attenuare quel duro giudizio? Sto andando a trovarlo proprio ora. No, disse Mary scuotendo la testa e sorridendo. Se dovessi dire che non sarebbe ridicolo come prete, devo dire che sarebbe qualcosa di peggio che ridicolo. Ma sono molto lieta di sentire che andrà a lavorare. D'altro canto, io sono molto lieto di sentire che voi non andrete via a lavorare. Mia madre, ne sono certo, sarà tanto più felice se verrete a trovarla alla parrocchia. Sapete che ama avere dei giovani con cui parlare e lei ha una gran quantità di cose da dire sui vecchi tempi. Le farete veramente un favore. Mi piacerebbe moltissimo se potrò, disse Mary. Ogni cosa mi sembra molto bella tutta in una volta. Pensavo che avrebbe sempre fatto parte della mia vita provare nostalgia per la casa e la perdita di questa lagnanza mi dà quasi un senso di vuoto. Forse serviva a occuparmi la mente al posto del buon senso. Posso venire via con te, Mary? Sussurrò Letty, una bambina assai fastidiosa che ascoltava tutto, ma fu resa esultante da Mr. Fairbrother che le strinse il mento e la baciò sulla guancia, cosa che essa raccontò alla madre e al padre. Mentre il parroco camminava diretto a Lowick, chiunque l'avesse osservato attentamente l'avrebbe visto scuotere le spalle un paio di volte. Penso che i rari inglesi che fanno questo movimento non appartengano mai al tipo grossolano, per timore di qualche goffo esempio che trovi il contrario, dirò quasi mai. Di solito hanno un temperamento fine e sono molto tolleranti verso i peccati veniali degli uomini, loro stessi inclusi. Il parroco stava tenendo un dialogo in cuor suo in cui si diceva che fra Fred e Mary Gertz c'era probabilmente qualcosa di più della considerazione di vecchi compagni di gioco e subito si domandò se quel poco di femminilità non fosse stata eccessiva per quell'immaturo giovane gentiluomo. In risposta a ciò ci fu la scrollata di spalle, poi rise di se stesso per aver forse provato della gelosia, come se fosse stato un uomo in grado di sposarsi, cosa che egli aggiunse: è chiaro come il sole che non lo sono. Al che scosse le spalle per la seconda volta. Due uomini così diversi l'uno dall'altro, cosa potevano trovarci in quello sgorbio scuro, come Mary chiamava se stessa? Non era certo la sua bruttezza che li attirava, e tutte le signorine brutte stiano attente al pericoloso incoraggiamento dato loro dalla società di confidare nella loro mancanza di bellezza. Un essere umano, in questa nostra nazione carica di secoli, è uno stupendo tutto, la lenta creazione di lunghe influenze reciproche, e il fascino è il risultato di due insiemi del genere, il primo che ama e il secondo che è amato. Quando Mr. e Mrs. Gers restarono seduti da soli, Caleb disse: Susan, immagina cosa sto pensando. Alla rotazione dei raccolti, disse Mrs. Gers, sorridendogli al di sopra del suo lavoro ai ferri, oppure alle porte posteriori dei cottage di Tipton. No, disse Caleb con aria grave, sto pensando che potrei fare un gran favore a Fred Vincy. Christie è via. Alfred se ne andrà fra poco e ci vorranno 5 anni prima che Jim sia in grado di occuparsi di affari. Avrò bisogno di aiuto e Fred potrebbe venire a imparare il mestiere, a lavorare sotto il mio controllo. E ciò potrebbe fare di lui un uomo utile se rinuncia a fare il parroco. Cosa ne pensi? Penso che non c'è nulla di onesto a cui la sua famiglia si opporrebbe maggiormente, fece Mrs. Gers in tono deciso. Cosa mi importa della loro posizione? Disse Caleb con una fermezza che era portato a mostrare quanto aveva un'opinione. Il ragazzo è maggiorenne, deve guadagnarsi il pane, ha abbastanza buon senso ed è abbastanza sveglio. Gli piace la vita rurale e io credo che potrebbe imparare gli affari assai bene se si applicasse. Ma lo farebbe? Suo padre e sua madre volevano che fosse un gentiluomo raffinato e io credo che anche lui abbia lo stesso genere di intenzione. Tutti quanti ci considerano inferiori a loro. E se la proposta venisse da te, sono certa che Mrs. Vincy direbbe che vogliamo Fred per Mary. La vita è una ben misera storia, se deve ubbidire a stupidaggini di questo genere, disse Caleb con disgusto. Sì, ma c'è un certo orgoglio che è giustificato, Caleb. Per me è un orgoglio ingiustificato lasciare che degli stupidi pregiudizi impediscano a uno di compiere una buona azione. Non c'è un lavoro di nessun genere, disse Caleb infervorato, tendendo la mano e agitandola su e giù per sottolineare la sua veemenza, che si potrebbe fare bene se uno desse ascolto a quello che dicono gli stupidi. Uno deve essere certo dentro di sé che il suo progetto è giusto e a questo progetto si deve attendere. Non mi opporrò a nessun progetto che tu abbia deciso, Caleb, disse Mrs. Gers, che era una donna dal carattere fermo, ma che sapeva che su alcuni punti il suo mite marito era ancora più fermo. Comunque, mi sembra deciso che Fred debba ritornare all'università. Non sarà meglio stare ad aspettare cosa preferirà fare dopo di allora? Non è facile trattenere le persone contro la loro volontà e tu non sei ancora del tutto certo della tua posizione o di quello di cui avrai bisogno. Beh, può darsi che sia meglio aspettare un po', ma quanto al fatto che avrò un sacco di lavoro per due, ne sono più che sicuro. Sono stato sempre occupato a tempo pieno con cose disparate e c'è sempre qualcosa di nuovo che salta fuori. Ma sì, appena ieri, santo cielo, non credevo di avertelo detto, è stato abbastanza strano che siano venuti da me due uomini, ciascuno per proprio conto, per farmi fare la stessa stima. E che credi che fossero? Disse Caleb, raccogliendo un pizzico di tabacco da fiuto e tenendolo fra le dita come se facesse parte del suo discorso. Una presa di tabacco gli andava quando se ne presentava l'occasione, ma di solito dimenticava che questa soddisfazione l'aveva portata di mano. La moglie posò i ferri e lo guardò con attenzione. Ma sì, quel Rigg, o Rigg Thurston, è stato uno, ma Bulstrode è venuto prima di lui. Così lo farò per Bulstrode, che si tratti di ipoteca o di acquisto, non sono ancora in grado di dirlo. Che sia possibile che quest'uomo abbia intenzione di vendere la terra che gli è stata appena lasciata, per cui ha preso il nome? Disse Mrs. Gers. Lo sa il diavolo, disse Caleb, che non attribuiva mai la conoscenza di cose indegne a nessun potere superiore tranne il diavolo. Ma Balstrode è da tempo che vuole mettere le mani su quel bel pezzettino di terra, questo lo so, ed è una cosa difficile da procurarsi in questa parte del paese. Caleb sparpagliò con cura il tabacco invece di annusarlo e poi aggiunse: "In retroscena delle cose sono curiosi. Ecco la terra che per tutto il tempo si aspettavano che venisse lasciata a Fred, mentre sembra che il vecchio non avesse mai avuto intenzione di lasciargliene un centimetro, ma che ha lasciato a questo figlio illegittimo che teneva nascosto e pensava che ci sarebbe rimasto attaccato e avrebbe tormentato tutti, come li avrebbe potuti tormentare lui se fosse potuto restare al mondo. Dico, sarebbe curioso se dopo tutto andasse a finire nelle mani di Balstrode. Il vecchio lo odiava e non ha mai voluto depositare i soldi nella sua banca. Che ragione poteva avere quella miserabile creatura per odiare un uomo con cui non aveva nulla da spartire?" disse Mrs. Garth. "Ma a che serve chiedere i motivi di gente simile? L'anima dell'uomo," disse Caleb con tono profondo e scuotendo gravemente il capo come faceva sempre quando usava questa frase. "L'anima dell'uomo, quando è completamente marcita, genererà ogni tipo di fungo velenoso e nessun occhio è in grado di vedere da dove ne è giunto il seme." Era una delle caratteristiche strane di Caleb, che nella sua difficoltà di trovare una parola per esprimere il pensiero, afferrasse, per così dire, frammenti di discorsi che associava a vari punti di vista o stati mentali. E ogni qualvolta provava un senso di sgomento. Era ossessionato da un senso di fraseologia biblica, anche se non era in grado di fare una citazione esatta.